140 caratteri. Una settimana di spettacoli. Di Marta Cagnola. Un saluto da Marta Cagnola, gli spettacoli, i protagonisti, le storie, il dietro le quinte. Abbiamo seguito tutti gli eventi questa settimana con Radio 24. Li abbiamo raccontati in tempo reale su Twitter con il mio account @MartaCagnola. Ecco il protagonista dell'intervista di oggi di 140 caratteri. Hotel Diana, Milano. Torna Renzo Arbore e lo fa con un doppio CD di duetti e live dal titolo autobiografico. E pensare che dovevo fare il dentista. Ho preso in mano il CD per la prima volta guardando avidamente che cosa c'è dentro, perché non me lo ricordo a memoria, perché c'è tanta roba messa da mio cognato Adriano Fabi, che è andato a, razzolando nel mio passato, è andato a spiluccare le cose più incisive e più, diciamo, interessanti della mia carriera, e sono le tappe più importanti della mia vita, perché naturalmente per un ragazzo di Foggia che doveva fare il dentista, trovarsi al Radio City Music Hall, al Carnegie Hall, alla Royal Albert Hall, alla Piazza Rossa, a Shanghai, eccetera, non credevo ai miei occhi e anche alle mie orecchie, visto che sentivo l'orchestra. Amore scombinato, tu hai tempo perduto, amore tu mi dici che sei venuta a fare. Amore strafottente, che non mi date niente, ti sei pigliata tutto senza manco ringraziare. Amore, chi tu dice che io non so felice, eppure chi tu dice sape tutta la verità. Zitto, piano piano, tu mi fatte scemo, mo son io che cerca te. Io voglio anche parlare del titolo di questa foto meravigliosa di copertina, nella quale lei, nonostante il suo tipico cappello, però indossa un camice con scritto Dottor Arbore, ed è in uno studio dentistico. Perché lei doveva fare il dentista? Cioè, mio padre aveva un ambulatorio, si dice da noi, accorsato, nel senso che era molto avanti, molto, era il migliore ambulatorio della mia città. Lo si deduceva dal fatto che invece di mangiare alle 2, all'una e mezza, mangiavamo alle 4, perché mio padre non riusciva a sbaltire i clienti, che erano tanti, quindi gli farà piacere sapere che suo figlio se lo ricorda benissimo, anche perché aveva una fame da lupo, ma andava in cucina a fare delle eruzioni. Mio padre voleva naturalmente che qualcuno ereditasse l'ambulatorio. Mio fratello no, perché mio fratello ha fatto medicina, ma poi pure lui si è diventato pianista per un periodo, poi antiquario. E toccava a me. Io ho fatto varie prove, sono svenuto regolarmente 4-5 volte col camice bianco, però quando poi ho collezionato tutti questi successi, mi è venuto in mente, pensa tu, che mio padre voleva che facessi il pianista e il dentista. Però ho letto che suo padre raccontava le barzellette per agevolare l'estrazione del dente, è vero? Sì, cioè credo che ho preso da lui il fatto di alleviare, di tenere conto che quando sto con le persone come con voi in questo momento, ritengo che sia il caso di allietarvi, non di intristirvi. Approfittava perfino della finale della barzelletta per fare l'estrazione, proprio che è quella, l'orgasmo del dentista, il grande momento. Papà, che è successo? E oggi ho fatto 10 estrazioni, una più faticosa della 6. L'unico grande vantaggio è che adesso il dentista non mi fa paura. Mr. Richards, vi chiedo il massimo silenzio. Grazie. Come hold me. chiedere ancora una cosa, le devo chiedere qualcosa del live, perché ha sempre voglia di partire. Ma ha sempre voglia di partire, ho sempre voglia di viaggiare, perché evidentemente io discendo da quel popolo di normanni, no, vero, che in Puglia, io sono normanno anche di Carnagione, che era Federico II, questi qua, Corradino di Svevia. Però a parte questo, c'è la passione per la musica, anche nella radio, nel cinema. Io ho fatto la musica perché ho fatto il jazz, la radio per esempio, io ho improvvisato tutto, ma non ho improvvisato le interviste o le scaramucce, abbiamo improvvisato il varietà io e Boncompagni. Poi io ho improvvisato e rinnovato il varietà televisivo e poi anche il cinema. Io dicevo a Benigni: guarda, tu devi fare questo, tu stai nella Cappella Sistina, pensi all'aldilà, che cosa verrà, incontri Fanfani e il terzino della Sampdoria, lui si carica e facevamo una performance che rimane nella storia del cinema, perché è stato il più lungo monologo, pensa tu, quello del Papocchio, che ha fatto Roberto. Ho imparato alla radio, io ero timidissimo, a parlare, a far lavorare la fantasia, andare, forse perché da giovane ero abbastanza il più timido della compagnia. Ho ascoltato per tanti anni e poi alla fine mi sono sfogato, poi parlo più di te. Ed è tutto per questa puntata di 140 caratteri con Renzo Arbore. Continuate a seguirci ogni giorno con il mio account Twitter @MartaCagnola. Le interviste di 140 caratteri tornano ogni domenica dopo il giornale radio delle 8.